Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Mighty FM. Chi vi parla, come sempre, da Radio Kairos presso il TPO di Bologna, è Claudia Mighty Mau. Oggi puntata densissima, sigla anche più breve, perché dobbiamo mettere tanta carne al fuoco e sentire tanta musica. Parliamo di White Nothing, il progetto personale poi evolutosi in band, almeno sul palco, ma insomma tutto frutto della mente creativa di Jack Tatum, di un piccolo paese della Virginia, che adesso sta a Brooklyn ma forse andrà a Los Angeles, chissà. Ne parleremo nei prossimi 90 minuti di questo nuovo album Life of Pause, uscito il 19 febbraio di quest'anno per la Capture Tracks in America e per la Bella Union in Europa. Cominciamo come sempre con il pezzo di apertura, Reich Pop. Una dichiarazione di intenti prendendo spunto dallo stile musicale, il padre del minimalismo, Steve Reich, che dir si voglia, una dichiarazione di intenti per questo musicista che ha deciso di applicare i pattern ripetitivi di questi xilofoni, marimbas, d'altra parte anche una stessa opera di Steve Reich, un suo pezzo si chiamava Six Marimbas, applicato a una canzone New Wave. E sfuma Reich Pop un po' tutti i pezzi dell'album, che sono molto molto lunghi, insomma più del solito, sono stati un po' editati per dare spazio a tutto quello che abbiamo pensato di mettere in questa trasmissione, che insomma da cui non potevamo prescindere, a partire da insomma il primo pezzo che ha fatto un po' conoscere Jack Tatum sulla rete ai tempi di MySpace. Nel 2009-2010 nasce questo progetto, come dicevamo, Blacksburg, Virginia, lui uno studente al Virginia Tech, però grande appassionato di musica, e in tutta la sua produzione si sente la sua evoluzione da ventenne, ventunenne, appassionato della musica inglese degli anni Ottanta, il jungly guitar pop, ma poi nei dischi successivi diventato sempre un po' di ascolti un po' più sofisticati, insomma, come succede a volte nelle persone, si cresce e si ascolta più roba, si va più ad approfondire certi ascolti magari un po' più difficili, ma comunque il punto di partenza è questa bellissima cover di un pezzo che noi qui a Mate FM probabilmente abbiamo sentito diverse volte. Si tratta di Cloud Busting di Kate Bush, contenuto in Hounds of Love dell'85 e che Jack Tarum ha rifatto nel 2010. Cloud Busting. Curiosità, insomma, un'omonimia, il video, se ve lo ricordate, vedeva la partecipazione di Donald Sutherland, che interpretava uno scienziato, ma una storia vera, e questo scienziato si chiamava Wilhelm Reich, un filosofo scienziato che aveva inventato, insomma, un macchinario per acchiappare le nuvole, anzi per scatenare i temporali. In questo video si vedeva Kate Bush vestita da ragazzino che interpretava il figlio, che poi scrisse un libro di memorie su questa vicenda, la storia di suo padre, e questo appunto fu l'ispirazione per un video pensato da Kate Bush, niente po' di meno che con Terry Gilliam, cosa che non sapevo. Ma noi stiamo parlando invece di White Nothing e andiamo avanti per parlare un po' della scena in cui si sviluppa la carriera musicale. È la scena che vede anche la presenza dei Beach Fossils venir fuori negli stessi anni. Tra l'altro sono compagni di etichetta e hanno anche fatto diversi progetti insieme, tra cui un 7 pollici di omaggio a una band scozzese, sempre dei primi anni 80, The Wake, e questo è Daydream dei Beach Fossils, tratto dall'album omonimo di esordio, sempre negli stessi anni, 2010. Fossils, anche questo, diciamo, il progetto soprattutto di una mente creativa, quello del cantante chitarrista Dustin Pazer. Non sapevo che ne faceva parte all'inizio alla batteria Zachary Cole Smith, che poi ha continuato la sua carriera solista con i Dive, che ascolteremo anche oggi. Appunto, una band che si inserisce in questa tradizione. A me fa sempre un po' sorridere quando ogni tanto, ciclicamente, c'è questa nuova generazione di musicisti americani che scopre la new wave, il post-punk, il jangly pop, appunto il pop chitarristico, chitarroso del Regno Unito della più o meno metà degli anni Ottanta, e fanno un sacco di gruppi, e insieme a loro anche tutti quei gruppi che poi sono stati etichettati, come anche i nostri White Nothing, sotto l'etichetta di Dream Pop. Ma andiamo avanti per parlare di Life of Poz, terzo lavoro di Jack Tarum, also known as White Nothing. Si tratta di Lady Blue, come abbiamo scritto nella presentazione, l'evoluzione costante da un disco all'altro, e anche la possibilità di avere accesso a dei mezzi produttivi che magari all'inizio neanche si sognava, e questa anche maestria come musicista, come scrittore, che cresce con il tempo, e come insomma la metafora della copertina in cui Jack è seduto in una stanza tutta molto riccamente arredata di questi materiali vintage, retro, però molto caldi, tutto sul tono del marrone, mi ha fatto pensare a questo album come una casa piena di stanze, dove in ogni stanza, come una camera a tema dedicata ad uno stile musicale, in cui lui si è messo un po' alla prova nel riprodurre, però ovviamente mettendoci molto del suo, uno stile diverso. Nelle interviste prima dell'uscita di questo disco, Jack ha dichiarato che voleva disperatamente che questo fosse un disco un po' di rottura, e che era terrorizzato dall'idea di essere etichettato in un modo univoco, di essere una sola cosa e di fare un solo genere musicale. E poi ha detto che io ci riesca o meno, so che la mia unica speranza di arrivare allo scopo che mi sono prefisso è di reinventarmi costantemente. Certo, questo reinventarsi non deve essere necessariamente drastico, ma ogni nuovo record deve avere la propria identità e deve avere una serie diversa di scopi, diversa da quelli dei dischi precedenti. Yeah. e sfuma anche Lady Blue, come dicevo abbiamo dovuto un po' tagliuzzare tutti i pezzi, perché sono molto più lunghi del solito. Mi piace molto ripetere un certo motivo musicale nelle code che sono molto lunghe, ed è stato scritto che in questo disco i pezzi respirano molto di più. Ma dopo l'esordio dei primi singoli, la cover di Kate Bush, esce Gemini, un disco che si distacca dalla massa di prodotti, insomma, musicalmente un po' simili di quegli anni negli Stati Uniti, e abbiamo deciso di far sentire una tripletta che contiene anche il primo singolo in realtà uscito già nel 2009. Questo è Living Dreams, poi c'è Summer Holiday e poi c'è Chinatown. Ecco, come si può sentire, i riferimenti musicali sono abbastanza chiari, quello che poi si è anche declinato nella versione twee del twee pop, ma che anche questo triplo colpo di batteria mi fa ricordare di non aver detto che nei Wake, gruppo dei primi anni 80, non famosissimo, all'inizio faceva anche parte Bobby Gillespie, che poi è andato a suonare la batteria con il Jesus e Mary Chain, qui tipica la tripla battuta ta ta ta, e poi passate Prima Scream e il resto è storia. Anzi, potrei chiudere il cerchio dicendo che ha appena fatto un duetto con Sky Ferreira, che è la fidanzata di Zachary Cole Smith dei Dive, che suonava la batteria all'inizio nei Beach Fossils, eccetera. Jack Tatum, che è sempre stato appassionato di musica prima di Nothing, aveva diversi progetti: Jack and the Whale, cantautorato sgangherato, e Face Paint, tropical punk. Non ho sentito niente, ma non lo faccio. E invece appunto Gemini, uscito nel maggio 2010, subito si è preso l'etichetta di Best New Music da Pitchfork, e era una sincera espressione personale, nata da una grande passione da fan, insomma. E ho letto che è come se avesse creato un tunnel sotterraneo tra le spiagge di Ibiza e i Luna Park, i campi da fiera, zuppi di pioggia di Manchester. Quindi insomma un disco dedicato all'indie degli anni 80 del Regno Unito, monumento a tutti coloro che hanno passato gli anni 80 depressi, immusoniti, a letto, chiusi in camera. E infatti appunto anche questo disco veniva definito anche bedroom pop, il pop da cameretta, e io direi più da dormitorio, visto che stava all'università. Ma come dicevamo, quegli stessi anni hanno visto l'emergere di molte altre band, tra cui i nostri carissimi Beach House, che insieme a Well Nothing vedremo ancora di nuovo al Primavera Sound di quest'anno, Barcellona, ma noi andremo a Porto all'inizio di giugno. E a che punto sono nella loro carriera i Beach House? Sono arrivati nel 2015 con un doppio disco, dopo Depression Cherry, dopo pochissimo tempo hanno buttato fuori un altro album, forse migliore di Depression Cherry, ovvero Thank You Lucky Stars, e questa è la bellissima Majorette. Mentre lasciamo che Victoria Legrand ci faccia da sottofondo, Jack Tarum, dopo il suo bedroom pop, passa a un secondo disco e ad avere insomma più possibilità produttive, e con questo terzo disco le possibilità crescono esponenzialmente. Ha insomma il lusso di poter andare in Svezia per registrare con John Eriksson, il batterista di Peter Bjorn and John, ha la possibilità di andare a Los Angeles per suonare con il chitarrista Brad Lehner di Medicine, anche amico del produttore di questo terzo disco, John Monahan, anzi Tom Monahan, e siamo arrivati ad un altro capitolo che è stato anche diffuso come singolo ufficiale ma senza video. Poco tempo fa, insomma prima dell'uscita del disco, Woman's Wisdom, con questo inizio di pianoforte che mi ha fatto molto pensare ai Supertramp o a Billy Joel, perché come ho letto le sue passioni musicali, i suoi ascolti musicali si sono approfonditi, sono variati, e quindi questa ne è la dimostrazione. My church, if you let me pay you. come questo album potrebbe essere considerato come una grande casa piena di stanze, ognuna insomma con un proprio stile. Anche a livello dei testi c'è un filo conduttore, che è quello delle relazioni. C'è sempre questa donna che, a cui lui si rivolge, e in questa canzone dice: non credo nel paradiso, ma magari tu potresti essere la mia chiesa, quando invece aveva addirittura intitolato una canzone Paradise, uno dei pezzi del secondo album Nocturne, che noi abbiamo già passato a Mighty FM, uno dei più belli, che poi vede anche una versione extended e un video con la partecipazione di Michelle Williams, che legge dei brani di un libro insieme a Shadow e Nocturne, un po' i pezzi migliori che non abbiamo deciso di mettere in questa trasmissione, privilegiando un altro pezzo che abbiamo sentito sempre qui in trasmissione, che però appunto io non posso prescindere perché è il mio preferito, ma l'ascolteremo più tardi. Come dicevo, abbiamo nominato Zachary Cole Smith, abbiamo nominato i Dive, anche nel contesto dei Beach Fossils, essendo anche lui un compagno di etichetta. Sentiamo a che punto è anche lui. È uscito da poco tempo l'ultimo album, Is The Is Are, dove c'è anche un pezzo cantato da Sky Ferreira che sembra veramente Kim Gordon, ma questa è Under The Sun. Stiamo ascoltando Under the Sun dei Dive, tratto dal secondo album dal titolo un po' strano Is The Is Are, ma la puntata è dedicata a Jack Tarum, ovvero White Nothing, che ha segnato sempre ogni album, il tempo intermedio tra un album e l'altro, dall'uscita di un EP. Beh, in effetti nel primo caso l'EP di cui parliamo, ovvero Golden Haze, che conteneva 5 pezzi, è uscito nello stesso anno dell'uscita del primo album Gemini. Questo perché spesso quando un artista ha la possibilità di poter incidere ha già insomma del materiale bello pronto da diverso tempo, e quindi magari lo sforna a breve distanza. Come dicevamo, Golden Haze, e questo è il cosiddetta title 3, che è stata appunto non a caso, assolutamente non a caso, paragonata a quella progressione così familiare di Just Like Heaven, The Cure. We'll be right back. banalmente, insomma, tutte le canzoni dei One Nothing sono canzoni d'amore, insomma è un po' un classico. Anche questa canzone dice Beautiful One, I wanna know where you are, bella, voglio sapere dove sei. Infatti diciamo che Jack non si è mai distinto molto come autore di testi. Infatti ho letto spesso che si dice, di solito insomma le parole erano come un po' dei suoni piazzati lì per un po' segnare la melodia della canzone, insomma. Mentre adesso anche questo nuovo disco, Life of Pause, si vede un attimo di evoluzione anche a livello dei testi, ma diciamo che è più concentrato sulla musica, come per esempio in questa esplosiva Japanese Alice. Sicuramente di melodie, insomma, è esperto, le sa scrivere molto bene. Anche questa canzone, insomma, così scoppiettante, power pop, un po' trascinante, poi alla fine arriva questo ritornello che fa riferire sempre a quell'epoca d'oro, proprio dell'84-85 in Inghilterra. E ho letto che questo brano è stato... L'ho letto perché insomma si parla di un gruppo che io non ho mai frequentato molto, non ho mai ascoltato molto. Parliamo di The Pains of Being Pure at Heart, sempre letto, sempre nominato, sempre sentito. Tra l'altro sono venuti a Bologna penso anche più di una volta, e questo è stato il pezzo che è stato associato a questa band come I Well Nothing. Degli inizi sono sempre stati affiancati, e quindi come non approfittare per sentire musica mai sentita a Might FM. E questi infatti sono due pezzi tratti dal primo disco omonimo del 2009 dei TPOBPAH, ovvero This Love Is Fucking Right e Everything With You. E comunque anche questa rullata di batteria mi fa ricordare anche ancora l'inizio di Just Like Heaven, ma soprattutto i Teenage Fan Club, anche nella melodia. Beh, qui anche nella voce c'è un po' del lirismo di Morrissey. E anche in questo caso si tratta del prodotto principalmente di una mente di New York, ovvero Keith Berman. Assolutamente, Teenage Fan Club per me. Dopo l'esordio omonimo del 2009, da cui abbiamo tratto questi pezzi, c'è stato un seguito nel 2011, Belong, e poi Days of Abandon del 2014, e poi un EP dell'anno scorso, Hell. Ma noi siamo arrivati al disco che li ha consacrato, proprio Why Nothing, e con cui io stessa li ho conosciuti, anche per il fatto che, soprattutto per il fatto che hanno suonato al Pitchfork Music Festival di Parigi nel 2012, loro c'erano, quindi io li ho scoperti, li ho amati molto, soprattutto per questo pezzo, che è appunto il pezzo da cui io non posso prescindere, This Chain Won't Break, e poi nel giro di 7 mesi li ho rivisti poi anche a Porto, al Primavera Sound. Non a caso Jack dice che il suo strumento preferito è assolutamente il basso, lui è un polistrumentista ovviamente, ma ha detto che la maggior parte delle canzoni, e che le canzoni che lo convincono di più, vanno avanti perché partono da una linea di basso, e se la linea di basso funziona, anche il pezzo funzionerà. Come dicevo, per il Pitchfork Paris, nella trasmissione dedicata a questo festival, avevamo fatto un mix tra alcune delle canzoni migliori, Shadow, Nocturne e Paradise, e poi nella puntata successiva, per il Primavera Sound di Porto, avevo messo in scaletta This Chain Won't Break, non sono riuscita ad abbandonarla, ma ci ho aggiunto un altro pezzo di Nocturne, The Bluegrass, con un inizio di chitarra assolutamente Stone Roses, questo. Tra l'altro anche in un'intervista che ho visto all'epoca dell'uscita del disco, il riferimento è assolutamente visivo anche di copertina di Nocturne, che sembra appunto uno dei quadri usati per le copertine Stone Roses fatti dal John Squire, il chitarrista. Per chi non lo sapesse, sembra Pollock, ma no, era lo stesso chitarrista dei Stone Roses. E anche un'altra caratteristica era il calendario lunare, anche perché quel disco, insomma, era stato concepito con uno stato mentale insonne, e quindi il ciclo lunare rappresentava il processo creativo del disco, la collocazione di ogni pezzo corrispondeva, insomma, ad una fase lunare. Ma questa è il pezzo invece omonimo dell'album nuovo di Zecca di cui parliamo oggi, Life of Pause, e il pezzo si chiama Life of Pause. We'll be right back. e finisce Life of Wars. È un po' un peccato sentire questo disco spezzettato, perché una cosa a cui ha prestato moltissima attenzione Jack Tarum, il produttore, è stato proprio l'ordine, il track listing, concependo alla vecchia, diremmo noi, questo album proprio come un LP, cui è molto molto importante la successione dei pezzi. Quindi immaginatevi, dopo Japanese Alice così trascinante, l'inizio di questo pezzo Life of Pose ugualmente, insomma, diciamo trionfante. Abbiamo nominato Stone Roses, She Bangs the Drums. Diciamo che è molto gratificante per me che ci siano un sacco di band che nascono per l'amore della musica pop, più o meno new wave, più o meno alternativa, della prima metà degli anni 80, degli anni 80 in generale, fino al shoegaze dei primi anni 90. Per molti è una scoperta, per noi che c'eravamo, insomma, ci ha segnato e ci fa piacere, perché alla fine niente, non c'è niente da fare, è stato un decennio, ma iniziando comunque, vabbè, dal punk e finendo con lo shoegaze, un tempo di 15 anni che ha veramente prodotto cose fondamentali e suoni che ritornano tuttora. Ma ci teniamo in sottofondo i Stone Roses per parlare dell'album dei What Nothing, Life of Pose, che su Metacritic ha ottenuto un dignitoso 75, c'è una sfilza di 8, tanti 8 per questo disco. Ovviamente i fan sono più entusiasti, quindi gli danno un voto di media che è superiore all'8. Un sito australiano dice che in questo disco Jack colpisce proprio in pieno, raggiunge il perfetto equilibrio tra una scrittura lucida e delle parti strumentali incandescenti e anche strane, che rendono questo disco forse appunto il migliore della sua carriera, perché prima era, diciamo, un ragazzino. Adesso invece è arrivato alla veneranda età di 27 anni, classe forse 1989, nato in Virginia. Poi ovviamente, come succede un po' a tutti i musicisti di una certa scena, si è trasferito a Brooklyn, adesso forse andrà a Los Angeles, chissà. Ma mi sono resa conto che ho fatto un errore di posizionamento in scaletta, perché in realtà Nocturne era già stato anticipato dall'uscita di un singolo, Nowhere, che poi non è stato incluso nell'album. L'album è uscito d'estate, mentre già a febbraio del 2012 è uscito questo pezzo che inizia ora, con questo inizio di armonica molto Johnny Marr, e che vede la partecipazione di Andrea e Stella, voce femminile dei Twin Sister, ora Mr. Twin Sister. We'll be right back. questo è Nowhere, singolo del febbraio 2012 che aveva anticipato l'uscita di, anzi diciamo di intermezzo tra Golden Haze del 2010 e poi Nocturne dell'estate 2012. Come dicevamo, il sito australiano hhhappy.com dice che Life of Pause è un album che è simultaneamente familiare, perché ovviamente ci sono dei riferimenti musicali proprio che coprono la storia della musica dagli anni 60 in poi, direi, perché ci sono dei riferimenti alla musica soul, del suono di Philadelphia, a Todd Rundgren, a Robert Fripp, alla musica, alle colonne sonore di Morricone. Perché, ha dichiarato Jack, mi sono dato il permesso di percorrere ogni strada, perché lo devo a me stesso di prendere quanti più rischi possibili. È un altro degli esercizi di stile che, come ho scritto nella presentazione, forse autocompiacimento oppure proprio la foga sperimentatrice di una persona assolutamente appassionata della musica, che ha la fortuna di poter farlo come attività nella vita e anche di avere di volta in volta la possibilità di accedere a mezzi produttivi molto più grandi, magari mai immaginati, pianoforte a coda, sassofonisti. Quando nel secondo album Nocturne, partendo appunto dal primo concepito nella sua cameretta con le sue chitarre e il suo computer, dove tutti i suoni, insomma, il suono principale era quello del riverbero, in cui tutto era un po' confuso, si prende il lusso già con il secondo disco di chiedere al produttore del tempo, che era Nicolas Vernès, che abbiamo nominato poco tempo fa come produttore del bellissimo Not to Disappear dei Daughter, di avere un batterista in carne ed ossa e di avere anche degli archi suonati e non sintetizzati. E questo è un altro pezzo di Life of Pause che ho identificato, insomma, etichettato come stile, diciamo, ballata fine anni 70, un po' anche beatlesiana, un po' Lennon, e quindi mi ha fatto pensare a, diciamo, a un nome assolutamente contemporaneo che seguirà subito dopo, ovvero Mac DeMarco. E sfuma Alien, questa malinconica ballata che appunto come stile mi ha fatto pensare a Mac DeMarco. Questo è un pezzo della sua ultima produzione, Another One l'ha chiamato, un EP uscito nel 2015. Questo è A Heart Like Hers. Mac DeMarco, zuzzurellone mattacchione, che fa parte sempre della stessa scuderia Capture Tracks insieme ai Dive, che non avevo detto erano anche andati in tour insieme nell'autunno 2012. Ecco perché, e anche dopo li abbiamo visti tutti e due, sia Wild Nothing che Dive, sia a Parigi a novembre, che poi a Porto la primavera del 2013. Mac Di Marco. Una delle recensioni che ho letto iniziava dicendo: ma avete mai visto una foto segnaletica di Jack Tarum? Avete mai sentito che si sia infilato la bacchetta della batteria su per il sedere? No, ecco perché Jack è una persona tranquilla, a differenza dei suoi compagni di etichetta, come nel caso di Zachary Cole Smith, ricordiamo la storiaccia dell'arresto per droga insieme alla povera Sky, e poi appunto a questa attività, questa azione compiuta evidentemente da Mac Di Marco non ci stupisce assolutamente, visto che quando l'abbiamo visto dal vivo, sempre a Porto, però nella scorsa edizione, ha finito il concerto calandosi letteralmente le braghe e facendo il caro buon vecchio panettone. Dicevamo, Jack fa proprio degli omaggi continui ai suoi idoli musicali, però quello insomma che lo differenzia dalla massa di emuli nostalgici, dream poppers che si rifanno agli anni 80 inglesi, è che è il migliore autore in questo campo. Ho anche letto che è forse il songwriter più sottovalutato che c'è in giro, e il fatto che abbia degli amori e dei riferimenti è stato dichiarato in modo proprio sfacciato, ma è stato giudicato una cosa positiva della serie, non ci giriamo tanto intorno. In questo pezzo, che ha anticipato l'uscita dell'album a fine novembre del 2015, Jack ha fatto un doppio video che vedeva due pezzi di seguito, però oggi li ascolteremo staccati. Si trattava di To Know You, attaccato a TV Queen, questo video sempre ambientato in questa casa dove girano queste due figure femminili, e questo appunto il riferimento è assolutamente banale, diremmo, To Know You. Insomma, uno le cose le può rifare bene e le può rifare male, e lui le rifà bene. il basso, strumento chiave, ma anche lo spazio per far respirare queste creazioni, uno spazio richiesto dal peso di questo nuovo suono creato, e questo è quello che scrive l'Enemy, che gli dà un 8. Era The 405 che diceva che Jack Tarum è uno degli autori più sottovalutati di questo decennio. Come anche scritto nella presentazione, è come se man mano che ha potuto avere accesso a maggiori mezzi, la sua abilità da artigiano è cresciuta. Ed ecco ovviamente il riferimento musicale, non potevamo non mettercelo. Ovviamente l'elefante nella stanza era It's My Life, Talk Talk, album omonimo It's My Life, sempre di quell'anno magico che è stato l'84. Ma noi andiamo avanti nell'ascolto di Life of Pause. Questo è forse il pezzo che è stato giudicato forse un po' più debolino. Questo inizio così di chitarra fa un po' pensare a Bowie, come in tanti altri punti, e si chiama, e ritorniamo un po' gli Stone Roses, un po' gli Smashing Pumpkins, Adore. And I can see the end inside. ad ogni disco c'è un'evoluzione a livello di stratificazione, di articolazione, di sofisticatezza, legato proprio alla crescita proprio anagrafica e dell'esperienza, e soprattutto, come dicevo, avere un po' questa cosa da stanza dei giochi, di poter avere più mezzi per dare corpo alle proprie idee, che poi magari non sai neanche tanto bene dove fermarti. Come dicevo, questa evoluzione sonica, sottolineata anche dalla recensione di Q-Mag, è proprio evidente da Gemini, che era un omaggio, insomma, casereccio fatto nella cameretta al guitar pop degli anni 80, poi il passaggio a Nocturne, che ha trasformato la stessa formula, l'ha applicata a uno schermo molto più grande, gli stessi colori, però la tavolozza si amplia, e fino appunto a passare a Life of Pose, che io ho definito, insomma, un affresco praticamente. E anche All Music 8, suono ricco e lussureggiante, in passato il suono era immerso in riverberi, si sentiva che era il lavoro di una sola persona, adesso è il salto da un piccolo palco a una grande sala concerti. E poco dopo, ovviamente, essendo necessaria anche un'attività live, il Jack si è allargato, nel senso, si è unito a lui un gruppo di altri musicisti, sono credo 6 sul palco. Anzi, sono 5 con lui: Jeff Haley al basso, Nathan Goodman alla chitarra, Jeremiah Johnson alla batteria e Kevin Knight alle tastiere. Ma appunto, facendo riferimento a quell'anno magico, ma anche l'85, mi sono resa conto che anche nelle scorse trasmissioni spesso abbiamo messo dei pezzi dell'85, The Lotus Eaters, The First Picture of You, che abbiamo unito a quell'altro hit contenuto in questo album, No Sense of Sin, perché mi pare proprio Nocturne come riferimento avesse quella time capsule proprio di quegli anni lì, insieme ad un altro nome fondamentale che ascolteremo più tardi e che mi ha fatto rivivere i miei 14 anni, ma questi sono i Lotus Eaters. Ecco, era questa It Hurts, che insieme a The First Picture of You, che ci dice anche Wikipedia, ebbe tantissimo successo in Europa, soprattutto in Francia, Italia e Spagna, perché era questo quello che noi vedevamo in televisione nei primissimi programmi dove mandavano in onda dei video musicali. The First Picture of You me lo ricordo benissimo, anche questa It Hurts, che invece è un po' più new wave, un po' più dark, un po' più anche Tears for Fears, che è anche un nome di riferimento di questi anni. Lotus Eaters, new wave, nata nell'82 a Liverpool, fondata fondamentalmente da Peter Coyle e Jeremy Kelly. E diciamolo che anche tutti questi pezzoni anni 80 erano veramente guidati dalle linee di basso fenomenali. E questa esplosione scusate, è TV Queen, il pezzo associato nello stesso video, nello stesso filo narrativo insieme a To Know You, quindi anticipato l'uscita di La Popposa nel novembre scorso. Forse questo è il pezzo che più ricorda lo step precedente, Nocturne. Soprattutto in questo ritornello. DIY Mag, sempre un bel 8, dice che questo disco invece è saldamente piantato nel terreno con i piedi per terra, quando le produzioni precedenti erano un po' vaghe, un po' avvolte in questa nebbia di suono di riverbero. In questo disco invece le melodie sono dannatamente più tangibili. Ma nonostante questo, Jack Tatum crea un panorama sonoro che insomma nasce dal sogno ad occhi aperti. Anche questo intermezzo, insomma, è una delle finezze adulte che decorano questo album assolutamente raffinato. Per una composizione di pezzi che comunque anche per sua dichiarazione è proprio classica, cioè della canzone pop, strofa ritornello, bridge, ritornello. E finisce TV Queen e facciamo un salto, diciamo, nella parentesi un po' più art pop, un po' più veramente stramba della carriera di Wild Nothing. Come abbiamo detto, ogni tanto c'era un EP che doveva uscire fuori tra gli album, e questo ha segnato proprio un cambio, o perlomeno insomma ha dichiarato al mondo di come gli ascolti stavano cambiando, di come i panorami si stavano ampliando. Questo pezzo è Dancing Shell, con questa declamazione da David Byrne tipo Once in a Lifetime, era contenuto in questo EP di 7 tracce, praticamente un album sarebbe potuto essere, uscito nel maggio del 2013 dal titolo Empty Estate. Watch. David Byrne, ma anche David Bowie, ad un ascolto mi sono segnata The Body in Rainfall, sembra il Bowie di Always Crashing in the Same Car, poi un disco comunque più psichedelico, Data World, una strana suite di 3-4 movimenti, ci sono dei pezzi strumentali, On Guyot e Ashiko, che contiene anche dei rumori di fondo, field recording, come c'è leggermente anche in questo album. Un altro pezzo molto bello è Ocean Repeating, Big Eyed Girl, un inizio che sembrano gli Essayer, e poi c'è Ride, che mi sono segnata, mi ha fatto ricordare Simple Minds dell'epoca di New Gold Dream, anche se ha la stessa struttura, lo stesso incedere di To Know You. Un EP di 7 tracce veramente, veramente interessante, Empty States, da cui abbiamo sentito questa Dancing Shell. Ma passiamo a questo pezzo languido di Life of Pause, Whenever I, che nei miei appunti di impressione primo ascolto ho scritto Soul, per poi leggere che in effetti una delle influenze era appunto il suono del soul di Philadelphia, forse inconscio perché l'ha ascoltato veramente tanto e quindi probabilmente è filtrato nei suoi pezzi, anche definito questo pezzo un funk da ragazzo bianco, Whenever I. Poi Now Magazine 8, forte della sua capacità di scrittura, Jack Tatum ha diciamo volteggiato sopra le nuvole derivative che riempivano il cielo di tutti i suoi contemporanei, insomma in ambito Britpop, perché appunto questa capacità sembra così naturale, senza nessuno sforzo, di creare melodie e hook, ovvero motivetti orecchiabili, ganci che continuano a differenziarlo, insomma a farlo spiccare anche in questo terzo album. E il titolo, Una vita di pausa, Life of Pause, è veramente adatto perché la sua musica ti attrae ad esplorare il piacere dell'ozio, insomma, del stare senza far niente ascoltando questa musica. Whenever I want you, arrangiamenti pieni fino a scoppiare. Lui e il produttore Thom Hannan hanno veramente curato ogni tono e ogni nota di questo disco. Quindi non tanto un disco fatto di singoli, ma di deep cuts, ovvero di quei pezzi che appunto non sono dei singoli, che magari ci vuole un po' più di ascolti per apprezzarlo, perché cresca, ma poi insomma sono i pezzi che segnano di più e che restano di più, insomma quelli che si rivelano poco a poco, ascolto dopo ascolto. E finisce Whenever I, è uno appunto dei riferimenti di quella epoca speciale e di quell'anno speciale, insieme all'84 anche l'85 era l'anno dei Prefab Sprout. Anche questo disco ha avuto moltissimo successo in Italia. Steve McQueen, quando ho letto appunto Jack Tatum che faceva riferimento all'ispirazione dei Prefab Sprout e nominava un album chiamato Two Wheels Good, io ho detto cos'è? Era semplicemente il nome che hanno dovuto mettere a Steve McQueen, l'album dell'85, in America per problemi di, insomma, di uso del nome a parte degli eredi di Steve McQueen. E la triade principale per me è questa Barney, poi seguita da Appetite e ovviamente da When Love Breaks Down. When Love Breaks Down, Prefab Sprout, non so, mi ricordo che si diceva che si indicasse cavoletti di Bruxelles prefabbricati, pop band inglese guidata da Paddy McAloon, e si dice che appunto il nome venga dal fatto che lui aveva capito male il testo di una canzone che gli piaceva tanto e che avesse deciso appunto di chiamare la band con questo nome, e questo appunto era un riferimento che non potevamo esimerci dall'includere in questa trasmissione dedicata a The Life of Pose, terzo album, un album audace, un album ambizioso di cui Musico MH dice: per un album che prova, che sperimenta, che osa così tanto, è veramente notevole quanta coerenza ci sia, quanto sia alto il livello dei pezzi in tutto il disco, perché anche nei momenti più deboli si sente comunque molta sicurezza e anche un'esecuzione assolutamente accurata e impressionante. Cioè, in fondo sembra che Life of Pose suona come se lui ci facesse proprio sentire quanto si sta divertendo con la sua abilità, la sua maestria. questo è il pezzo conclusivo dell'album Love Underneath My Thumb, che inizia anche con un pattern ripetitivo stile Reich. Anche qui ritorna un po' Bowie, anche questa doppia voce che si sente quando dice Calm Down Baby non è proprio uguale, ma ha fatto pensare a Golden Years. Ma ci sono anche altri punti in cui ho pensato al nostro caro David Bowie. Anche Lady Blue ricordava abbastanza come atmosfera Ashes to Ashes. Insomma, un disco che segna assolutamente un'evoluzione e che nell'intenzione di Jack voleva suonare organico, appunto come ci fossero delle persone in carne ed ossa che magari vivono in un ambiente così ricco, così caldo come quello rappresentato nella copertina, dove per la prima volta compare lui. Anche questo qui, insomma, è anche un segno, è anche un po' una copertina che richiama anche un po' lo stile degli LP dell'epoca, appunto pre compact disc. Questo pezzo ancora sembra ancora più anni 70 che anni 80, per un disco che appunto riflette tutte le varie ispirazioni di un musicista sempre in costante evoluzione, e che quindi chissà, forse ci dovremo aspettare tra poco un EP che segni il passaggio successivo. E saremo molto contenti di vederla ancora una volta al Primavera Sound di Porto. Abbiamo dovuto tagliare ancora quest'ultimo pezzo. Consiglio vivamente l'ascolto di questo bellissimo album. Era Life of Pause di Why Nothing. Ciao da Claudia Mighty Mau.